I believe. gonna be gonna, it's gonna be gonna, it's gonna be gonna be gonna be gonna, it's gonna be gonna, it's gonna be gonna. Pourriez-vous lâcher ma chatte? Si j'arrive à jouir, tu m'auras pour toute la nuit. Gonna be Corazón que no sienta de verdad, corazón que...

le sono può fare niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. An die eigene Nase. Fasse dir an die eigene Nase. Fasse dir an die eigene Nase.